guarda, noi le ricorderemo come abbiamo sempre fatto, al di là di quello che sta accadendo, siamo tutti, come dire, responsabili, coscienti, no, dei pericoli, insomma, di questo virus, ma siamo altrettanto determinati a ricordare Francesco a 43 anni dal suo assassinio. Sono passati, come ricordavi, appunto 43 anni, è ancora vivo il ricordo anche nelle giovani generazioni. Una cosa che è riuscita a fare Francesco Lo Russo e ovviamente voi come amici e amiche è quello di riuscire a mantenere vivo il ricordo. Certo, mantenere vivo di ricordo, vorrei dire che Francesco era uno studente iscritto alla facoltà di medicina dell'Università di Bologna, quindi oggi se non fosse stato assassinato credo che sarebbe anche lui impegnato a, come dire, a salvare le vite all'interno di qualche ospedale, quindi già questo è un dato. L'altro dato che mi collego, perdonami, ma a questo virus, è che 43 anni fa noi fummo tacciati in maniera stupida, provocatoria ed arrogante come gli untorelli. Beh, insomma, quella frase pronunciata allora, tra l'altro da un personaggio importante, segretario di un partito importante, beh, suona in maniera anche abbastanza particolare, perché è vero, noi eravamo, siamo e saremo gli untorelli dei diritti, gli untorelli della libertà, perché per noi questo è il senso della nostra lotta ed è il senso del ricordo di Francesco oggi, appunto a 43 anni dal suo assassinio. Avevate in programma altre iniziative che sono saltate a causa di questa emergenza? Sì, c'erano in programma altre iniziative, proprio perché non siamo dei pazzi, siamo consapevoli del pericolo, abbiamo pensato che, insomma, se era il caso di spostarle, quindi verranno fatte, ma più avanti, speriamo presto, nel senso che speriamo che il virus passi, che ci sia una ritorno ad una normalità, però insomma le faremo più avanti.